Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Una buona giornata a tutti. Per giorni vi abbiamo dispensato pillole di finanza con le nostre parole del risparmio e anche oggi in chiusura impareremo insieme un nuovo termine. Tutto questo lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi in vista del Salone del Risparmio che si terrà a Milano fra il 21 e il 23 di aprile. Il tema di Salva Danaio di oggi è proprio questo: quanto ne sappiamo di finanza. Poco sembrerebbe. Alcuni studi dimostrano che non solo i prodotti di risparmio gestito vengono confusi con quelli bancari e assicurativi, ma anche che la maggioranza dei cittadini italiani ha difficoltà a descrivere le caratteristiche dei più semplici strumenti finanziari come le azioni, le obbligazioni e il relativo differente livello di rischio. Ne sappiamo la metà di tedeschi e inglesi, ma al di là di queste classifiche, delle quali sinceramente ce ne faremo una ragione, sapere di più significa anche rischiare di meno. Magari anche guadagnare di più, avere più strumenti, insomma, per mettere al riparo dai rischi i nostri soldini. Per parlarne abbiamo con noi alcuni ospiti che sono Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. E in collegamento è anche Filippo Cavazzuti, presidente del consorzio Patti Chiari. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Il numero verde per chiamare se avete delle domande, se avete dei quesiti da porre ai nostri ospiti sull'educazione finanziaria, sui termini anche, è l'800240024, come sempre, oppure via sms al 349-238-6666. Ma prima, come di consueto, a voi e agli ospiti chiedo un attimo di tempo, perché proprio di finanza dobbiamo parlare, ossia diamo uno sguardo a ciò che accade nel mondo della finanza, della borsa. Innanzitutto vi dico che è arrivato nella notte dall'Argentina l'annuncio della nuova offerta per lo swap delle obbligazioni in default per 20 miliardi di dollari, 4,5 dei quali in possesso di investitori italiani. In particolare il concambio dei bond avverrà con un taglio del 66,3% sul loro valore nominale. L'operazione prenderà il via fra 10 giorni, se prolungherà per altri 30. E Salva Danaio si occuperà di Tango Bond e dei dettagli della nuova offerta proprio martedì prossimo. Sappiamo che molti di voi sono interessati. Poi uno sguardo a ciò che accade sui mercati, in particolare i mercati in Europa, che in questo momento sono contrastati. Parigi è positiva, più 0,11%, così anche Londra intorno alla parità, mentre Francoforte è negativa, meno 0,06%, è negativa anche Piazza Affari. Il FTSE MIB cede lo 0,19%, il FTSE IT All Share lo 0,17%. Sui mercati, sui listini in Europa, il tema principale è quello dell'energia. La peggiore del paniere principale milanese è Prysmian, dopo che ieri l'amministratore delegato Valerio Battista, nel corso dell'assemblea dei soci, ha spiegato che per quanto riguarda l'andamento del mercato in cui opera il gruppo, il primo trimestre ha confermato il declino in termini di volumi rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Quindi il titolo cede in particolare il 2,77%. Tenaris, meno 1,38%, anche questa azione debole all'indomani dell'incontro con gli investitori a New York e sulla scia del calo dei prezzi del petrolio, che ora trattano sotto gli 85 dollari al barile. Male anche ST Microelectronics, meno 1,29%, sulla scia un po' di tutto il settore tecnologico. Questa notte negli Stati Uniti Google ha annunciato i dati del trimestre, l'utile in crescita superiore addirittura alle attese, ma il mercato probabilmente si aspettava di più e scendono un po' tutti i titoli del settore. Fra positivi invece, Mediaset è la migliore del paniere principale a Piazza Affari, più 2,13%. Ieri ha comunicato la sigla dell'accordo con la partecipata spagnola Telecinco e Prisa, e oggi JP Morgan ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo Mediaset da 6,6 a 7,6 euro per azione. Bene anche Finmeccanica, più 1,64%, che beneficia della dichiarazione dell'amministratore delegato Guarguaglini, il quale ha detto che per la controllata Ansaldo Energia c'è un interesse di 3-4 partner per un'acquisizione di una quota di minoranza. Bene anche Enel, più 1% sulla scia in questo caso delle buone notizie arrivate sul fronte del debito. La società ha raggiunto l'accordo con 30 banche italiane ed estere per aprire una linea di credito da 10 miliardi finalizzata a coprire le esigenze del gruppo elettrico. Bene Telecom, più 0,53, contrastati invece i bancari, Intesa intorno alla parità, UBI intorno alla parità, Monte dei Paschi di Siena più 0,5%, Mediobanca meno 1%, Popolare di Milano meno 0,57%, Banco Popolare meno 0,5%, Unicredit meno 0,55%, euro rispetto al dollaro a 1,3528. E questo è quello che sta accadendo oggi in borsa. Ma torniamo a noi e torniamo a parlare di risparmio, in particolare di questo salone promosso da Soggestione, il Salone del Risparmio, che si terrà la prossima settimana a Milano, 3 giorni in cui i professionisti del settore incontrano le autorità, il mondo accademico, le istituzioni per confrontarsi e scambiare idee su un tema di centrale rilevanza, ossia l'educazione finanziaria. Questo è il tema e tra gli obiettivi dell'iniziativa c'è proprio quello di aiutare gli italiani a migliorare la propria educazione finanziaria. Piccoli risparmiatori, padri di famiglia, studenti, possono così incontrare alcuni gruppi del settore per approfondire il funzionamento degli strumenti di investimento attualmente disponibili sul mercato. Ma quanto ne sappiamo di finanza? Sentiamolo nella nostra scheda. Che cos'è un'azione? Cosa rappresenta un'obbligazione? Domande che all'apparenza sembrano semplici e scontate, ma alle quali spesso molti non sanno fornire una risposta adeguata. I risparmiatori italiani, infatti, conoscono poco la finanza e gli strumenti finanziari. Diversi studi di settore dimostrano che non solo i prodotti di risparmio gestito vengono confusi con quelli bancari e assicurativi, ma addirittura la maggioranza dei cittadini ha difficoltà a descrivere le caratteristiche dei più semplici strumenti finanziari e il relativo differente livello di rischio. Il livello di educazione finanziaria della popolazione italiana corrisponde circa alla metà di quello registrato in altri grandi paesi europei, come la Germania, 5,1 punti, e il Regno Unito, 4,6 punti. La fascia più debole, ma allo stesso tempo quella verso la quale è più semplice intervenire, è naturalmente quella dei giovani. Il 32% dei ragazzi con età compresa tra 11 e 25 anni dichiara che spesso non sa come usare al meglio il proprio denaro, mentre il 19% non cerca mai di risparmiare e spende senza pensarci troppo. Ecco perché è importante insistere sin dall'adolescenza attraverso programmi ad hoc, come quelli proposti dal Consorzio Patti Chiari, che consentono di acquisire le competenze e le nozioni indispensabili per gestire al meglio il proprio denaro e imparare a conoscere le alternative disponibili offerte dal mondo dei servizi finanziari. La nostra scheda per chiamarci, vi ricordo il numero verde 800 24 0024, oppure via sms se avete dei quesiti proprio su questi temi dell'educazione finanziaria al 349 238 6666. Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, buongiorno di nuovo. E perché questo salone? Ma c'è un'esigenza molto evidente di avere un momento di confronto sul tema, diciamo, della nostra cultura finanziaria. E quando si parla di cultura finanziaria dobbiamo pensare che è un tema molto ampio, non riguarda soltanto i risparmiatori, riguarda la cultura di noi operatori, riguarda la cultura per esempio delle autorità di regolamentazione. Questa crisi ha messo in luce che tanti attori, tanti protagonisti della finanza forse hanno bisogno di aumentare la propria cultura finanziaria. E questo bisogno di cultura finanziaria ha una ragione fondamentale per gli italiani. Gli italiani hanno uno stock di risparmio che è pari a 4 volte il PIL, quindi è rilevantissimo. Se riusciamo a far rendere bene questo stock di risparmio, il nostro reddito aumenta in maniera molto rilevante. Se anziché rendere il 3%, rendere il 4% in media all'anno, diventiamo tutti più ricchi in maniera rilevante. Quindi la nostra cultura ha direttamente un impatto su come noi riusciamo a far rendere il nostro risparmio finanziario, i nostri investimenti. Questo salone è un'occasione per mettere a fattor comune tante esperienze diverse, quella molto importante di Patti Chiari ad esempio, e c'è una ricchezza di conferenze, di occasioni, di eventi. C'è un successo clamoroso, abbiamo più di 6.000 persone iscritte che parteciperanno, che comunicheranno, vogliamo gettare un seme che dovrà fiorire nei prossimi anni. Filippo Cavazzuti, presidente del Consorzio Patti Chiari, lo diceva il dottor Galli, l'abbiamo detto anche nella scheda, c'è da parte, partita da Patti Chiari un'iniziativa, un programma per acquisire nozioni di finanza. Certo, si tratta del Consorzio Patti Chiari non solo all'obiettivo di spiegare i dati più semplici, nei nostri siti vengono spiegati i diversi prodotti finanziari cosa sono, ma è un progetto ancora più ambizioso, vuole diffondere alcuni concetti che il mondo del risparmio in Italia ancora non maneggia con facilità, ed è il concetto di rischio. Cioè, troppo spesso si associa il rischio non a un evento probabile, ma lo si associa a un dato che si prende così, senza rifletterci troppo. Mentre invece il concetto di rischio è un concetto probabilistico. Faccio un esempio: se un indicatore dice che il rischio è basso, come va letto quell'espressione? Va letta che vi è un'elevata probabilità di avere un rendimento basso, perché se il rischio è basso vuol dire che anche il rendimento non è molto elevato per un certo periodo di tempo, ma non è un rischio zero, cioè quindi c'è una minima probabilità che quel titolo sul quale abbiamo fatto affidamento, l'emittente di quel titolo vada in default. Questi sono i concetti base che dobbiamo cercare di rendere, di inculcare nel mondo dei risparmiatori, perché possano fare scelte consapevoli sul loro risparmio, che, come dice il dottor Galli, è una ricchezza della nostra economia. Bentornati a Salve Danaio. Oggi parliamo di risparmio, di finanza, in attesa del Salone del Risparmio che si terrà a Milano la prossima settimana. Abbiamo cercato nella scheda di inizio trasmissione di capire quanto ne sappiamo di risparmio. Abbiamo scoperto che in realtà ne sappiamo abbastanza poco. La metà, dicevamo, secondo alcuni studi, di quanto ne sanno tedeschi e inglesi, e quindi siamo ovviamente anche più in difficoltà rispetto ai nostri colleghi europei ad orientarci nei vari prodotti finanziari, strumenti finanziari. Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, è anche una situazione, quella della cultura finanziaria, che può metterci al riparo o meno da rischi per quanto riguarda il nostro patrimonio, il nostro risparmio. Sì, non possiamo coltivare l'illusione che dobbiamo diventare tutti degli esperti di finanza, così come nessuno di noi coltiva l'illusione di curarsi da solo e fare a meno del medico. La verità è che molti dati confermano che più aumenta la cultura finanziaria, più aumenta generalmente, tra l'altro la cultura finanziaria è molto legata anche al reddito e alle disponibilità economiche, più aumenta la consapevolezza che bisogna affidarsi, comprare dei servizi di qualcuno che sa gestire i nostri investimenti. Il fai da te non è in realtà l'obiettivo dell'aumento della cultura finanziaria. L'aumento della cultura finanziaria serve a ragionare insieme al proprio consulente, al proprio gestore, innanzitutto per esigere un ottimo servizio, un buon servizio, e in secondo luogo per riuscire a prendere delle decisioni. Il problema più grosso nell'ambito finanziario è che le decisioni che prendiamo sono decisioni che hanno un impatto molto in là nel tempo, quindi è molto difficile capire che fare una cosa o fare un'altra, il risultato non lo si può toccare subito, come comprare un bene o godersi un viaggio o qualsiasi altra cosa, ma gli effetti sono effetti a 10-20 anni sul nostro benessere. E in secondo luogo che in realtà ci sono delle logiche di base fondamentale che dovrebbero essere nel nostro patrimonio di conoscenze, così come tutti sappiamo che fumare fa male, dovremmo sapere per esempio che concentrare il rischio, quindi fare dei propri investimenti in un singolo titolo, in un singolo strumento finanziario, è pericoloso, bisogna diversificare e quindi per esempio capire qual è il valore di uno strumento come il fondo di investimento, che per sua natura è costruito sulla diversificazione. Passare anche questi strumenti di base non è facile. Noi abbiamo due grossi problemi. Uno, lo Stato non è mai stato in grado di fare degli investimenti seri sull'educazione finanziaria. Pensiamo a cosa è accaduto con la previdenza complementare, purtroppo i lavoratori dipendenti si sono trovati molto, molto soli nell'affrontare la scelta se trasformare il proprio TFR e versarlo dentro i fondi pensione. Quello che i dati dimostrano è la scelta, è una scelta vincente nel lungo periodo, e non c'è stato un vero investimento nel portare cultura a queste persone che devono fare questa scelta. In secondo luogo, la nostra storia finanziaria è relativamente breve. Gli italiani hanno iniziato a investire davvero in termini affrontando i mercati finanziari all'inizio degli anni 90. Prima di allora eravamo semplicemente il bot people. Pensiamo che gli americani hanno iniziato negli anni 20 e negli anni 30 a investire. Quindi sì, dipende anche dalla nostra storia di risparmiatori, giustamente. Storia, certo. Filippo Cavazzuti, presidente del Consorzio Patti Chiari, lei prima sottolineava questo concetto di rischio, quindi anche il ruolo dell'educazione finanziaria, certo. D'accordo? Certo, infatti noi su questo il Consorzio non gestisce prodotti, non dà consulenze. Il Consorzio dà informazioni e cerca di far crescere la cultura finanziaria del Paese. Da questo punto di vista un obiettivo importante del Consorzio sono le scuole, perché riteniamo che o questi concetti, quelli che diceva il dottor Galli, quelli che si leggono nei buoni libri di finanza, questi concetti non sono semplici e bisogna cominciare a introdurli, a parlare con i giovani. Parlare con i giovani facendo loro presente che il tema della finanza non è il tema per diventare improvvisamente ricchi. Il tema della finanza è qualcosa che guida tutti noi, come si dice, dalla culla alla bara, ed è un modo di diversificare i rischi, è un modo di assumere delle decisioni che garantiscono un futuro, e quindi concetti che noi teniamo dobbiamo cominciare nelle scuole, che sono i giovani a cui cominciare a dare questi concetti e offrire delle informazioni gratuitamente. Offrire informazioni gratuite ai risparmiatori significa, come si dice nella teoria, abbattere i costi informativi. Quindi se queste informazioni fluiscono nella popolazione e i risparmiatori sono in grado di fare scelte più consapevoli. Riteniamo che si debba cominciare dalle scuole e con i ragazzi. Abbiamo un numero per chiamarci se avete delle curiosità o delle domande da fare, 800 24 00 24, al quale ha chiamato Paolo dalla provincia di Belluno. Buongiorno, grazie per l'attesa. Sì, pronto, buongiorno e grazie a voi di avermi dato questa possibilità. Premetto che non ho ascoltato tutta la trasmissione, per cui non so se è già stato fatto cenno a quello che voglio dire. Volevo segnalare che l'ANAS, l'Associazione dei Promotori Finanziari, ha un progetto simile riservato ai giovani, in particolar modo alle scuole medie, dell'Unione delle Scuole Medie Superiori, che si chiama, il progetto si chiama Economicamente. Quindi sono dei colleghi che sono stati formati apposta per questo progetto e che stanno facendo degli incontri di informazione finanziaria. Con le scuole in Veneto, immagino. No, in tutta Italia. In tutta Italia. Io chiamo a Veneto perché sono consigliere regionale dell'ANAS per il Veneto, ma questo è un progetto che è in tutta Italia. Diciamo, la formazione dei colleghi è avvenuta nei mesi scorsi e sta partendo, diciamo, i primi incontri nelle varie scuole d'Italia. Grazie. Consiglierei Paolo. Alla signora Bocciani di magari chiedere un intervento da parte del nostro presidente in tale proposito. Grazie Paolo. C'è questo, Paolo ci raccontava di questo progetto dell'ANAS, noi prima parlavamo del progetto Patti Chiari e quindi Filippo Cavazzuti. Anche noi abbiamo, sì, ci sono diversi progetti, infatti. Esatto, abbiamo sul nostro sito di Patti Chiari proprio un sito dedicato alla scuola che si chiama Economia a Scuola. Ecco. Che dialoga con gli insegnanti, ci si iscrive gratuitamente ovviamente a questo sito in modo che si possa formare anche una comunità sul web fra gli insegnanti per dialogare fra di loro sui più importanti problemi che affrontano nel momento in cui devono dare un po' di educazione finanziaria ai ragazzi. Il tema è difficile, ma abbiamo un ottimo successo su questo sito. Cavazzuti, potrebbe essere utile avere un programma unico anziché vari programmi? ma vede, l'educazione finanziaria è allo stato nascente nel nostro paese. Avere, bloccare, solidificare l'educazione finanziaria, io non sono così favorevole. Penso che sia un momento di fantasia, che gli insegnanti debbano essere liberi. Insomma, vorrei evitare il mincul pop dell'educazione finanziaria. Filippo Galli, è d'accordo? Non c'è dubbio che la pluralità dei programmi, tra l'altro sono tutti presenti al Salone, c'è sicuramente Patticchiari, c'è ANAF, quindi voglio rassicurare anche il nostro ascoltatore che è intervenuto, ce ne sono altri. È difficile immaginare, non è facile portare a fattor comune tutti i progetti. Io prima l'ho detto, un po' il problema italiano, ma che si riscontra in tanti settori. Noi non abbiamo una mano pubblica che sa svolgere, che svolge quel compito di regia. E infatti quello che accade è che in un certo senso il Salone propone questo incontro tra tutte quelle parti dell'industria che stanno facendo investimenti molto rilevanti per fare cultura finanziaria, educazione finanziaria. Questi programmi sono programmi che vedono anche tanto volontariato, che vedono tanto impegno, perché l'industria si rende conto, il risparmio gestito, le banche si rendono conto che l'aumento della cultura finanziaria aumenta anche la possibilità di far crescere i prodotti, i servizi, e quindi è un'occasione di far crescere l'economia. Certo, questi investimenti necessariamente nessuno ha la chiave magica. Noi vediamo anche in sede europea, nell'ambito OCSE, ci sono una pluralità di programmi che hanno anche finalità diverse, tutte compatibili. Ad esempio, ci sono paesi nei quali l'obiettivo principale dell'educazione finanziaria è quella di insegnare alle persone a non indebitarsi troppo. È il caso sicuramente dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, dove uno degli obiettivi principali è spiegare che utilizzare le carte di credito e indebitarsi troppo è un grosso problema. Noi italiani non abbiamo fortunatamente questo non problema, è forse siamo il dei caso, risparmiatori sì. naturali. Dell'Italia, anche se ieri la Banca d'Italia ci ha ricordato che ci stiamo indebitando un po' di più. Bentornati a Salva Danaio, se volete chiamarci 800 24 00 24. Quest'oggi stiamo parlando di quanto ne sappiamo di finanza e di risparmio in attesa del Salone del Risparmio a Milano la prossima settimana. In attesa c'è Alberto dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Alberto, buongiorno. Allora, la mia domanda era questa. Il fatto che l'Italia fosse meno compromessa nei grandi fallimenti della finanza internazionale di questa terribile crisi, e anche di peso forse che la minore informazione finanziaria ha indotto le persone ad essere a rivolgersi a strumenti meno pericolosi di quanto non siano avvenuti per i paesi anglosassoni più informati. È una questione interessante, Alberto. Giro la domanda, o comunque la questione, perché è proprio un tema, a Fabio Galli. Prima avevo confuso il suo nome con Filippo Cavazzutti. Fabio Galli, direttore di Assogestioni. In effetti potrebbe essere un tema, no? È una bellissima domanda, no? Sono d'accordo. In realtà è chiaro che se noi guardiamo al momento di crisi, essere un paese che gioca molto sulla difensiva ci ha aiutato. Ma non dimentichiamoci che gli effetti dei nostri investimenti, come dicevo prima, sono effetti che vanno misurati nel tempo. Quando un quarantenne, forse superato un po' il periodo della spensieratezza, particolarmente in Italia, inizia a risparmiare, ha la possibilità di risparmiare, va a determinare il suo benessere all'età di 70 anni. Quei 30 anni di accumulazione di risparmio fanno sì che se si è estremamente difensivi, se si tengono i soldi nel materasso, se si tengono i soldi sul conto corrente, si finirà poveri, si finirà molto poveri a 70 anni. E non dimentichiamoci che è vero che forse in paesi che hanno conosciuto una finanza più esplosiva ci sono stati dei momenti di grosso panico dalla fine del 2008 alla metà del 2009, ma sono anche paesi in cui oggi i portafogli stanno recuperando molto rapidamente il loro valore, e se si misura la performance di quei portafogli su 10-20 anni, in quei paesi gli investimenti rendono più che da noi. Io posso assicurare che tra avere tutti i soldi oggi su un conto corrente e metterli regolarmente in un fondo di investimento ben diversificato, che fa investimenti anche sui mercati emergenti nella giusta proporzione, che fa investimenti in azionari nella giusta proporzione, su periodi di tempo superiori ai 5-10 anni, non c'è dubbio che darà rendimenti decisamente migliori. Quindi facciamo attenzione che purtroppo l'ultimo decennio è stato un decennio di momenti di crisi. I momenti di crisi hanno un forte impatto emotivo, ma se pensiamo che tenere i soldi sul conto corrente sia il modo giusto di investire, in realtà non teniamo nemmeno dietro l'inflazione. Oggi i soldi sul conto corrente non ci proteggono nemmeno dall'inflazione. La vera tecnica per affrontare il risparmio degli investimenti è quello di saper investire bene, che vuol dire diversificare, e sapere che ogni crisi del passato è stata superata. Guardate cosa è accaduto, un anno fa eravamo al minimo del mercato, da allora i mercati nell'ultimo anno hanno avuto delle performance eccezionali. Chi non ha disinvestito, chi è rimasto fermo perché aveva una buona asset allocation, oggi si trova in una situazione assolutamente di tranquillità, di serenità. Cavazzuti, ha sentito il tema posto dal nostro ascoltatore? In effetti è una lettura abbastanza interessante. Non c'è alcun dubbio, ma io condivido quello che l'ascoltatore ha detto, cioè il nostro sistema bancario è un sistema bancario che non campava sui debiti come campava il sistema anglosassone. Non a caso la crisi è esplosa negli Stati Uniti, non è esplosa in Italia, e quindi noi abbiamo un sistema bancario, chiamiamolo forse più prudente, diciamo che ha una tradizione, una storia di non utilizzare quei strani prodotti finanziari come i subprime oppure tutti quei titoli che campavano sul debito. Da noi questo sistema non c'era. Da noi appunto non credo che sia stato tanto il fatto che non c'era educazione finanziaria, quanto abbiamo una storia alle spalle di un sistema bancario diverso, molto più di tipo europeo e meno anglosassone. Il compito oggi è però come quello di mettere in condizione i risparmiatori di sapere dialogare correttamente con l'intermediario. Troppo spesso avviene che il risparmiatore va presso un intermediario e non è in grado di interpretare le parole, il senso. Oggi la MiFID, che è la direttiva sui servizi di investimento, impone la cosiddetta profilatura, cioè ogni risparmiatore è chiamato dalla propria banca perché esprima il proprio, in un dialogo con il funzionario, la sua propensione al rischio. Ora, su questo non bisogna lasciare il dominio delle parole in mano all'intermediario. Occorre che il nostro risparmiatore sappia dialogare positivamente, fare le domande, chiedere insistentemente il perché di certe proposte. Questo è il compito dell'educazione finanziaria, mettere sullo stesso piano in termini di comprensione chi risparmia e chi offre prodotti di risparmio. E anche questo significa educazione finanziaria anche per il sistema bancario, che deve imparare a dialogare in modo piano ed efficace con il mondo dei risparmiatori. Paolo da Cagliari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Aveva una domanda. Sì, in parte quasi totalmente è stato trattato il tema che avrei voluto, diciamo, proporre io, nel senso che il vostro ospite, come diceva, dagli anni 20 gli americani sono abituati a investire. E purtroppo poi si è visto cosa è successo nel 29, si è visto poi cosa è successo nel 2008. Penso che uno come Murdoch dalle nostre parti avrebbe fatto meno fortuna. Una maggiore conoscenza dei titoli finanziari non ha portato del benessere in paesi anglosassoni, come si è visto, nel senso che si è vista un'abitudine a spendere molto di più di quello che erano le loro e che sono le loro possibilità. Cioè lei collega il rischio alla conoscenza della finanza, forse un po' collegamento ardito, però va bene, grazie Paolo, è una sua riflessione. Fabio Galli. Sì, io penso che quando si misurano bene l'andamento dei mercati nel lungo periodo, in realtà la diversificazione, la conoscenza dà dei buoni risultati. Noi oggi leggiamo un po' tutta la realtà finanziaria attraverso quello che è stata la storia di questa crisi, che sta lasciando grosse tracce nell'economia reale, ma da un punto di vista degli investimenti di lungo periodo pensiamo al vero tema degli ultimi anni. Il vero tema degli ultimi anni sono i mercati emergenti. Là c'è una crescita molto spesso a due cifre. I mercati emergenti, anche considerando gli ultimi anni, hanno avuto comunque dei rendimenti, delle performance interessantissime. E quindi in realtà avere cultura finanziaria significava probabilmente da qualche anno a questa parte comprendere che un po' dei nostri risparmi è sensato dedicarli a un investimento in quella direzione. E essersi aperti all'investimento in quella direzione dà i risultati, li dà e come, non è vero che non li dà. Poi giustamente, come diceva anche il professor Cavazzuti, la cultura finanziaria serve ad evitare l'utilizzo di strumenti che nulla hanno rispetto alle vere finalità di investimento, strumenti che non sono adatti per le persone fisiche, per noi risparmiatori normali. Ma e comunque anche a fare le domande giuste agli operatori. Certo, ma io però vorrei mettere, in realtà la maggior parte degli operatori usa strumenti in Italia come altrove, usa strumenti che sono molto sensati, cioè si propongono comunque strumenti obbligazionari, si propongono fondi. Ora, il problema finanziario è nato anche nell'ambito proprio di rapporti tra intermediari all'ingrosso, grosse banche d'affari. Il nostro tema è un tema diverso, il nostro tema, io direi, non è tanto il tema legato a quello che hanno fatto alcuni grossi intermediari finanziari che in alcuni casi hanno provato anche a proporre degli strumenti inadatti a noi. Il nostro tema è il tema di aprirci a un certo tipo di investimenti, ad aprire la nostra modalità di investire. 10 anni fa, 15 anni fa in Italia era possibile vivere con un piccolo portafoglio di titoli di Stato, ma era razionale fare questo. Almeno in parte era razionale, oltretutto era l'unica cosa possibile. Adesso è completamente diverso. Grazie, io purtroppo non ho più tempo, ma ringrazio per essere stati con noi Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, Filippo Cavazzuti, presidente del consorzio Patti Chiari. Torneremo a parlarne e in particolare continueremo il nostro percorso per spiegarvi quali sono le parole del risparmio. La parola di oggi è rating. Radio 24 e Assogestioni vi presentano Le parole del risparmio. Il rating è l'indicatore del grado di solvibilità di un soggetto debitore, quale uno Stato o un'impresa. In altre parole, è il giudizio del rischio che un emittente di debito non abbia la capacità o la volontà di effettuare completi e puntuali pagamenti della quota principale e degli interessi durante il periodo di validità delle obbligazioni emesse. La maggior parte delle emissioni obbligazionarie, pubbliche o private, è affiancata da un rating che rappresenta un accessorio in grado di comportare benefici sia per i debitori che per i creditori. Anche se in alcuni casi, come è avvenuto di recente con il crack di Lehman Brothers, vi sono circostanze che le stesse agenzie di rating e dunque le loro classificazioni non possono prevedere. Tra i più importanti rating ci sono quelli elaborati dalle società statunitensi Moody's e Standard & Poor's, che esprimono il merito di credito degli emittenti di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali. La AAA indica il massimo dell'affidabilità del debitore. I voti scendono progressivamente su AA, A, BBB e così via. Le parole del risparmio. Salva Danaio si chiude qui, io ringrazio Carmelo Lauricella in regia, Gaia Romani e Alessandro Longoni in redazione per Soldi e Dintorni e Salva Danaio, grazie a tutti voi per l'ascolto, Deborah Rosciani torna lunedì, io vi auguro un buon fine settimana.